Il problema del traffico di persone risulta essere uno dei più attuali e di difficile soluzione nell'Europa centro-orientale. Da anni esiste un'organizzazione non governativa attiva in Repubblica Ceca, la Strada, che si adopera per la protezione delle donne coinvolte nei traffici per lo sfruttamento sessuale. Centinaia, se non migliaia, le vittime che sono aiutate a ritornare nei loro paesi d'origine dell'Europa centro-orientale dopo essere state contrabbandate o indotte alla prostituzione con l'inganno nei paesi occidentali. Una volta tornate a casa, le donne hanno bisogno di una struttura di supporto che le aiuti ad essere reintegrate nella società. La Strada è stata sovvenzionata negli ultimi 9 anni dai ministeri della giustizia e degli esteri olandese, in cooperazione con la Fondazione Olandese contro il traffico delle donne. L'organizzazione ha uffici in Repubblica Ceca, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Olanda, Polonia e Ucraina. I rappresentanti della Strada affermano che c'è stato un certo cambiamento nel traffico delle donne, mentre precedentemente la Repubblica Ceca era più un paese di origine e transizione, ora risulta essere anche una meta di destinazione, essendo avvenuti profondi cambiamenti sociali dopo la caduta del comunismo nel 1989. Le vittime di solito vengono trafficate da un paese più disagiato a uno economicamente più forte. Tra l'altro, i paesi dove vengono maggiormente trafficate le donne ceche sembra essere proprio l'Italia, con 10 casi accertati nel 2003. Questo significa che le donne vengono deportate non solo dall'Europa orientale a quella occidentale, ma anche da regioni economicamente depresse all'interno della stessa area. Con il lancio di un progetto di 15 mesi, che vede unita Repubblica Ceca, Olanda e Gran Bretagna, il governo ceco cerca di rafforzare la sua legislazione e di formare specialisti, così come di implementare nuovi sistemi per combattere con più successo il traffico umano. Il progetto riceverà il sostentamento di oltre 950.000 euro da parte dell'Unione Europea. Secondo i rapporti della polizia ceca, oltre il 78% dei contrabbandi di persone riguardano cittadini cechi. Il resto proviene da Cina, Slovacchia, Ucraina, Germania e Vietnam, insieme con qualche piccola percentuale di moldavi, russi, polacchi, armeni e afghani. La Repubblica Ceca è principalmente un paese di destinazione e delle volte anche di transito. La somma media pagata dai cittadini cechi ai contrabbandieri si aggira attorno ai 1.000 dollari per andare ad esempio a Giappone e 500 dollari per raggiungere gli USA. Il contrabbando di persone è diverso dal traffico in quanto trattasse di una illegale quanto volontaria migrazione che può comunque condurre all'involontario sfruttamento presso aziende senza scrupoli sessuale o di altro tipo. Una proposta per una nuova legge sulla prostituzione che vorrebbe legalizzarla concedendo delle licenze alle lavoratrici, stimolando un controllo medico mensile sulle stesse, con la registrazione delle case di tolleranza e conseguente tassazione, è stato a lungo dibattuto, mentre il proponente di questa legge, il Dipartimento di Polizia Ceca del Ministero degli Interni, crede che la legge possa aiutare a limitare la prostituzione forzata. La Strada, per voce della coordinatrice Clara Skrivankova, afferma che né la legalizzazione né la criminalizzazione sono gli strumenti per risolvere il problema del traffico di persone. Secondo la Strada, la legalizzazione non impedirebbe la prostituzione forzata, ma la allevierebbe soltanto, creando dall'altro lato un problema ancora più grande. Le donne straniere costrette alla prostituzione senza una licenza non riceverebbero alcun aiuto, ma sarebbero multate o arrestate. Il ministro degli interni ceco afferma che non c'è stato alcun progresso nella nuova legge sulla prostituzione, innanzitutto perché la Repubblica Ceca è legata dagli accordi internazionali per la soppressione e la lotta al traffico di persone e alla prostituzione forzata dal 1949. Questo accordo infatti lega i paesi firmatari a non emanare alcuna legge che legalizzerebbe la prostituzione. Molti dei paesi che appartengono a questo patto sono i paesi ex sovietici. Sono Teresa Nemtsova e sono giornalista per Radio Liberty. per Amisnet e Reporter Associati.